Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Segreti di Stato e reati di mafia, leggi ed eccezioni. Con gli uni quanto con gli altri, a lungo si è confrontato Ferdinando Pomarici, procuratore aggiunto a Milano con alle spalle 30 anni di carriera. Dopo aver guidato la direzione distrettuale antimafia, ora è tornato nella squadra della Procura ed è tra i possibili candidati al vertice dell'ufficio inquirente. Colui che ha rappresentato l'accusa insieme ad Armando Spataro nel delicato processo contro agenti dei servizi segreti americani e italiani sul sequestro dell'ex imam Abu Omar, entriamo nel vivo del dibattito sulle intercettazioni, dall'emendamento Salva 007, accantonato dopo giorni di polemiche, ai possibili effetti dei limiti dei 75 giorni. Partiamo dunque dalla norma sugli agenti segreti ispirata, per ammissione dello stesso guardasigilli, proprio al caso Abu Omar e alle indicazioni della Consulta sul segreto di Stato. La prima considerazione che vorrei chiederle è se con un emendamento del genere un processo come il vostro sarebbe stato possibile. Evidentemente no, avremmo trovato un limite invalicabile in una norma che avesse impedito qualunque forma di intercettazione, dalle quali intercettazioni in concreto è emersa la prova di certi rapporti di cui peraltro non posso parlare, visto che la Corte Costituzionale, pur dichiarando in premessa che non vi è nessuna norma che vieti le intercettazioni telefoniche nei confronti degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in concreto poi ha ritenuto che quel tardivo segreto di Stato apposto ed opposto alle nostre attività di indagini operasse e quindi ha impedito l'utilizzazione concreta di quanto era emerso dalle indagini, tra cui quelle intercettazioni che avevamo effettuato. Quindi l'attuale accantonamento di questo emendamento viene accolta come una decisione positiva? Sicuramente sì, e io osservo questo. Prescindiamo un attimo dalla vicenda Abu Omar. Io dico che se è giustificabile la previsione che il governo, con una propria decisione di natura squisitamente politica, previa valutazione sull'opportunità, decida di impedire lo svolgimento di determinate attività di indagine che potrebbero sì portare all'accertamento dei responsabili di gravi reati, ma che per far ciò dovrebbero disvelare notizie che nell'interesse dello Stato è opportuno che rimangano segrete, si assuma la responsabilità politica e decida in questo senso. Mi va bene. Se invece si fa addirittura una norma di carattere generale per cui comunque e sempre, per definizione e per principio, c'è il segreto di Stato su quelle materie, evidentemente vi è una dilatazione totale, per cui si prevede che per definizione solo che si sfiorino certi ambienti, certi personaggi, certi soggetti, ci si imbatte comunque nel segreto di Stato. E allora quello non mi va più molto bene come magistrato. Poi è chiaro che io, come tutti gli altri magistrati italiani, applico la legge che viene promulgata, però in linea di principio, se mi si pone come regola quella che dovrebbe essere una eccezione, e cioè il divieto di indagare su una certa materia, se invece diventa regola generale, chiaramente osservo che c'è una forte limitazione a quello che è un obbligo costituzionale, quello dell'esercizio dell'azione penale. Questo è stato anche un po' uno dei temi che ha attraversato anche nei dibattiti le lunghe e travagliate fasi del processo Abu Omar, sulla possibilità di indagare su una zona grigia che per definizione è quella intorno ai servizi segreti, e la linea della procura è stata anche quella del dire per definizione non può esserci una zona franca tout court del diritto. Ma certamente che no, io osservo che anche la recentissima legge di modifica della disciplina dei servizi, pur ammettendo per la prima volta la possibilità della commissione di alcuni reati per venire, per giungere ai risultati che i servizi di sicurezza si propongono, individua questi reati in una categoria ristrettissima, con limiti molto precisi. Trattasi di reati sicuramente minori, quindi non è possibile che, pur in presenza di limiti così stringenti, venga poi di fatto prevista una possibilità di impedimento dell'attività di indagine generalizzata. La giudice, nelle motivazioni della sentenza, parlò di paradosso giuridico sul segreto di Stato, parlò della creazione di un ombrello di immunità. La storia però, anche passata, di tutti i vari processi di vario tipo che in Italia hanno lambito le zone grigie dell'intelligence, ha confermato come però in rarissimi casi si sia arrivati a delle identificazioni di coinvolgimenti o di responsabilità o addirittura anche di una identificazione nominale, diciamo, delle persone coinvolte. Ovviamente tutto questo a voi che avete lunga esperienza alle spalle era ben presente. A me, per principio, quello che è successo in altre occasioni, in altri processi, interessa relativamente. Io, volta per volta, ho un procedimento e vado avanti per accertare se il reato è stato commesso oppure no, e ove sia stato commesso cercare di identificarne gli autori e portarli davanti al giudice per il giudizio. Punto. Nel caso specifico siamo giunti a individuare gli autori materiali, gli agenti della CIA che hanno materialmente eseguito i fatti. Abbiamo accertato quelle che secondo noi erano elementi di prova in ordine a responsabilità ben precise di appartenenti ai servizi di sicurezza. È intervenuta una decisione, una sentenza della Corte Costituzionale che ovviamente deve essere applicata e rispettata, ma il che non significa che non possa essere valutata anche criticamente, che io tuttora non condivido, perché questa sentenza ha accolto l'impostazione che un segreto di Stato possa essere apposto successivamente nel corso delle indagini e successivamente all'acquisizione degli elementi di prova. Secondo me questa impostazione non è accettabile. Quello che non mi va bene è quello che è successo nel processo a Buomar, che nessun segreto di Stato risultava presente. Noi abbiamo dichiarazioni formali agli atti ripetute, certo, in cui si diceva più volte che non vi era segreto di Stato sull'ipotesi reato sequestro a Buomar, e che dopo che noi abbiamo accertato quegli elementi di prova che ci inducevano a ritenere la responsabilità di persone legate ai servizi, il segreto di Stato è stato apposto dopo, il che significa che la notizia era stata regolarmente acquisita in assenza di alcun segreto e che quella apposizione è avvenuta non al fine di impedire il disvelamento di una notizia che era stata già disvelata, ma solamente al fine di impedire l'utilizzo processuale di quell'attività di indagine che avevamo compiuto legittimamente. Qui si è sovvertito completamente il principio. C'è stata anche proprio una sorta di braccio di ferro, mi passi il termine poco tecnico, a colpi di ricorsi e controricorsi alla Consulta intorno al segreto di Stato, che ha coinvolto anche due governi di colore diverso. Certo. Sulla vicenda il suo collega, il procuratore Spataro, nel suo recente libro parla di un disastro ambientale dei diritti. Condivide la definizione? Il disastro ambientale dei diritti si ha al momento in cui si accetta la possibilità concreta che un uomo, indipendentemente dalla sua nazionalità, dai suoi convincimenti politici, dalle sue condotte anche criminali, possa essere privato dei suoi diritti più elementari al fine di giungere a determinati risultati che possono essere ritenuti utili per la collettività. Lo Stato che dà agli altri delle regole di comportamento e quindi le dà a se stesso per primo, è il primo che deve rispettare quelle regole di comportamento. Lo Stato che non rispetta le sue stesse leggi, sia pur per finalità che in teoria possono essere ritenute accettabili, è uno Stato che a mio avviso va a comportarsi come i terroristi. Non sembri un paradosso o una frase forte, io dico che chi usa le attività criminali ai propri fini ideologici e politici viene perseguito, giustamente, doverosamente, come noi abbiamo fatto e come abbiamo fatto anche nei confronti di Abu Omar, però deve essere perseguito secondo le norme. Ricordiamo che Abu Omar era indagato e processato nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo internazionale, appunto. E dico di più, l'azione sconsiderata di chi ha sequestrato Abu Omar, portandolo poi in Egitto, detenendolo per anni senza alcun titolo, torturandolo, massacrandolo, è un uomo che oggi è veramente gravemente è stato condizionato anche nella salute oltre che nella psiche. Tra le altre cose ha provocato un danno notevolissimo, perché noi che stavamo pedinando, intercettando Abu Omar, avremmo, come in altri casi simili, probabilmente individuato tutti i componenti della cellula che ad Abu Omar facevano capo e che invece dopo la sua sparizione si sono ovviamente dileguati. Questo vuol dire che ci sono un tot di presunti complici che potenzialmente sono ancora in circolazione in Italia? Sono sicuramente in circolazione, spero che almeno il clamore della vicenda li abbia indotti a andare fuori dall'Italia, è una consolazione misera perché si saranno recati magari a compiere attentati in Afghanistan piuttosto che in Iraq, piuttosto che in altre parti del mondo, come vediamo purtroppo ogni giorno leggendo i giornali o ascoltando altri mezzi di informazione. Dal processo Abu Omar indietro fino alle inchieste sulla malavita organizzata e poi il terrorismo. Dopo aver a lungo affrontato nella prima parte il nodo di segreti di Stato, zone grigie, 007, con Ferdinando Pomarici, procuratore aggiunto di Milano, parliamo di intercettazioni e dei limiti dei 75 giorni, al momento caduti dal disegno di legge in discussione al Senato. Ma è una norma assolutamente assurda e a mio avviso di dubbia legittimità costituzionale. Innanzitutto in assoluto dico che già il legislatore ha previsto con il nuovo codice dei limiti ben precisi, dicendo che a seconda della gravità del reato il pubblico ministero può far durare le indagini preliminari per un periodo di tempo ben preciso che viene scaglionato in alcune fasi che si va dai 6 mesi ai 24 mesi come termine massimo a seconda, ripeto, della gravità dei reati. E quindi di un limite già c'è sotto questo profilo, ma diventa assurdo che in presenza di un termine per il quale io posso portare avanti le indagini, ve ne sia un altro più ridotto per il quale io posso portare avanti alcune specifiche indagini, cioè che vi siano due termini diversi. Non ha senso che io possa compiere alcune tipologie di indagini in quel periodo e altre per un periodo più ristretto. E credo che ci sia un dubbio di legittimità costituzionale, perché come dicevo prima non dimentichiamo che la Carta Costituzionale impone al pubblico ministero, non consente, impone, è il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, vi è un principio costituzionale che dice pubblico ministero tu devi indagare, allora prevedere che il pubblico ministero debba indagare per il periodo di tempo di 24 mesi o 18 mesi e però né in quel periodo di tempo per alcune specifiche tipologie di indagini possa indagare per un periodo minore, credo che vi sia una violazione di questo obbligo dettato costituzionale. Ma poi non ha senso. Io sono stato, credo, il primo a rappresentare sia al ministro Maroni in occasione di un incontro che si tenne a Milano in tema di attività di contrasto per il narcotraffico, sia sia la Commissione parlamentare di indagine sull'antimafia agli inizi di quest'anno, quando è venuta a Milano per conoscere la situazione della criminalità organizzata nel distretto della Corte d'Appello di Milano, ripeto, credo di essere stato uno dei primi, ma col ministro Maroni già 2 anni fa, credo, a rappresentare che questo tipo di ipotesi, perché allora era solo un'ipotesi di modifica della legge sulle intercettazioni telefoniche, sarebbe stata gravemente dannosa, perché non si può dire che una volta che per i reati di mafia e per i reati di terrorismo valga, continua a valere la precedente disciplina, ergo non vengono danneggiate quelle indagini particolari, perché mai o rarissimamente un'indagine nasce come indagine di mafia. O si costringe il pubblico ministero ad una forzatura inaccettabile, per cui al momento in cui c'è minimo reato che può essere sì significativo di un'attività criminale mafiosa, ma di cui non vi è quella prova al momento dell'inizio delle indagini, a iscrivere quel reato già aggravato con l'aggravante speciale della mafiosità, per cui si possa poi procedere alle intercettazioni telefoniche con il regime dell'attività di indagine antimafia, ma è una forzatura. E perché il pubblico ministero deve essere costretto a ricorrere a quei mezzucci? Oppure lo si lascia nelle situazioni di ad andare a indagare in situazioni che probabilmente sfoceranno poi in un'ipotesi di reato di 416 bis o di 74 stupefacenti quando si tratti di associazioni criminali dedite al narcotraffico, ma di cui al momento dell'inizio delle indagini non vi è ancora la prova. E questo vale a maggior ragione nelle direzioni distrettuali antimafia del nord Italia. Le inchieste il più delle volte, come lei diceva, non partono già chiaramente con una struttura di tipo mafioso, ma da reati di altro genere. E a tal riguardo le inchieste della direzione distrettuale antimafia sono andate soprattutto in questi ultimi anni a Milano, soprattutto nella direzione della 'Ndrangheta. Lei più volte l'ha già detto, è la 'Ndrangheta il vero pericolo per la Lombardia sul fronte infiltrazioni. Quanto è forte questo pericolo? Molto, molto. Non è vero che al nord, a differenza che al sud, vi sia una minore infiltrazione. Al nord, a differenza che in Calabria, vi è una minore manifestazione esteriore, nel senso che essendo l'attività tipica delle famiglie di 'Ndrangheta al nord volte, oltre che al narcotraffico, ad attività pseudo-imprenditoriali apparentemente lecite, i segnali esteriori che si percepiscono sono meno evidenti, non ci sono le sparatorie tra rivali di clan, non ci sono gli omicidi mirati, gli attentati e così via, o ci sono, ma ci sono in misura molto minore. Certo. Quindi il sintomo esteriore è meno evidente, l'infiltrazione invece è pesante lo stesso, soprattutto, come dicevo prima, nell'attualità più recente nell'ambito imprenditoriale delle attività tipiche di quella imprenditoria che nella relazione che io ho fatto da ultimo alla Commissione parlamentare antimafia ho denominato come impresa mafiosa. E che è concentrata e che è rivolta soprattutto appunto alla presenza di questa impresa mafiosa di origini calabresi. Se ne parla soprattutto adesso in vista di un pericolo infiltrazioni nell'Expo, lei parlava anche di questo. Anche sicuramente, ma è in tutti i settori dove vi è la possibilità di infiltrarsi. Io ho anche detto e ripeto che però sarebbe anche un errore voler focalizzare l'attenzione solamente all'Expo, così come in precedenza è avvenuto per altre grandi opere, quale il raddoppio dell'autostrada Milano-Torino, l'alta velocità ferroviaria, il ponte sullo stretto, cioè tutte quelle che sono le grandi opere che presumono, presuppongono grandi appalti, ove certamente può essere utile infiltrarsi. Ma a mio avviso quello che già sappiamo è già grave, perché è nella miriade dei piccoli o medi appalti conferiti dagli enti pubblici locali che già è avvenuta l'infiltrazione mafiosa. E quando noi abbiamo, 100 appalti per un valore inferiore, la somma globale dei 100 appalti diventa enorme lo stesso, e soprattutto va a incidere nei confronti degli imprenditori, di una miriade di piccoli imprenditori corretti, onesti, che si vedono intralciati nella loro attività lavorativa. E a fronte di questa miriade di rischi e di potenziali rischi di infiltrazioni, c'è una sufficiente squadra di investigatori e magistrati per cercare di stanarle, oppure c'è il solito costante problema di mancanza di uomini e risorse? Sicuramente una mancanza assoluta di uomini e risorse, non tanto di magistrati quanto di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria di cui disponiamo a Milano oggi è a livelli qualitativi assolutamente di eccellenza, ma sono numericamente molto molto limitati e quindi non riescono certamente a tenere dietro a tutti i rivoli delle indagini, per cui sono costretti a operare delle selezioni che di per sé sono chiaramente pregiudizievoli. Come sempre potete riascoltare questa come tutte le altre puntate delle Storiacce sul sito di radio24.it. Scrivetemi, ciao, a sabato.